Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti, oggi è giovedì 23 settembre e siete sempre sul nostro programma che fa da ponte tra carcere e città, Liberi Dentro, Eduradio e TV. Io sono sempre Caterina Bombarda, alla conduzione con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Di questa trasmissione ora in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Oggi la notizia che ho scelto di approfondire, l'avete forse sentita tutti, detenuta 23enne partorisce in cella, Cartabia manda gli ispettori. È un articolo, leggo da Repubblica, cura di Liana Milella, è una storia uscita su tutti i giornali e telegiornali. Parliamo dell'incredibile storia di Amra e di sua figlia, nata dietro le sbarre senza un motivo. Infatti il giudice che decise la carcerazione della ragazza aveva dichiarato: il fatto che sia in stato interessante non impedisce l'applicazione della misura di maggior rigore. Ed è una cosa un po' strana questa, siccome in questi casi l'ordinamento prevederebbe, leggo dal sito di Antigone, la detenzione domiciliare speciale. Speciale perché si rivolge a una speciale categoria di persone in una condizione che necessita di una disciplina singolare. Mi riferisco alle detenute madri in carcere che hanno figli piccoli e che prima delle innovazioni legislative che sono intervenute da poco erano costrette o a tenerli con sé e a crescerli nell'istituto penitenziario oppure ad affidarli alla propria famiglia se esistente o a un istituto, quindi privandosi della libertà di crescerli. Caterina, questa è una cosa che si ripete, perché il dramma delle madri e dei figli che si sono trovati in questa situazione in realtà ha suscitato l'attenzione delle istituzioni già anni addietro. È proprio così, l'attenzione è stata posta già da tempo e così infatti si è intervenuti prima con le leggi 663 del 1986, poi la 165 del 98 e poi con la legge 40 del 2001 per modificare la normativa esistente. Proprio quest'ultima legge, chiamata la legge Finocchiaro, dal nome del ministro che la presentò al Parlamento nel 97, ha portato a significative modifiche, introducendo soprattutto nuove misure alternative, la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori, quindi questo con il chiaro obiettivo di facilitare la relazione tra madri detenute e figli. Allora, appurato che le leggi ci sono, come mai questa detenuta ha partorito da sola? Allora, infatti, stando alla legge, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere di una donna incinta o madre di prole di età inferiore a 3 anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezione rilevanza. La leggo questa cosa all'articolo 275,4. E francamente questo non mi pare il caso di Amra, accusata di furto, un reato minore, potevano benissimo esserci le misure alternative alla detenzione, che avrebbe quindi lei tranquillamente potuto usufruire dei domiciliari o in una casa famiglia protetta, come aveva proposto la garante Gabriella Stramaccioni. E quindi sorgono tante domande, come giustamente si chiede anche la giornalista Rita Bernardini sul quotidiano Il Riformista. Lei dice: ma che fine hanno fatto i servizi speciali per l'assistenza sanitaria, per la gestazione delle puerpere? Perché la ASL non ha fatto funzionare questi servizi speciali? E infine, perché i ministeri della salute, della giustizia e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non hanno vigilato sulla fruizione dei servizi previsti? Sono domande che fa riflettere. Sì, c'è però un motivo di vergogna in più in questa vicenda, Caterina, che è il trattamento riservato ai Rom. È proprio questa in realtà forse l'origine vera di questa storia. E lo dico amaramente anche come donna, siccome Amra è una giovane Rom di origine bosniaca italiana, già madre di altri figli, lei non lo sa, ma il governo, qualcuno invece dovrebbe saperlo, che all'articolo 75 dell'ordinamento penitenziario prevede invece che i consigli di aiuto sociale abbiano appunto il compito di aiutare i detenuti a reinserirsi nel contesto sociale. Inoltre, uno sguardo ai numeri, i numeri delle detenute incinte o con figli minori non supera le 60 all'anno, ma l'attenzione comunque resta alta. Per questo nella legge di bilancio del 2021 è previsto lo stanziamento fino al 2023 di 1,5 milioni di euro l'anno dedicati all'accoglienza delle madri o dei padri con bambini al seguito nelle strutture già esistenti o da istituire. E speriamo che questa cosa, se non altro, migliori la condizione di queste persone in privazione della libertà personale. Ma ora una canzone l'ho scelta proprio dalla Bosnia con Maya Sar e la canzone è Karakoe Tisnam. A fra poco. Sad žuriš kuda nepitam jer ako pitam ti šutiš i sve se teže rastajem od tebe i tvog tijela i sve te manje poznajem a nisam tako htjela ko da kradem te od svih samo za sebe nek te ostave nek mi ne diraju tebe i krv i dušu otrujem najgore kad te ranim i opet sve to prezirem dok se pred tobom branim nemoj mi kvariti dan, nikad mi nije bilo teže. Ti nisi živio sam u zlatu paukove mreže. Rieccoci e bentornati, sempre su Liberi Dentro e Radio TV, continuiamo il nostro approfondimento tra notizie di cultura generale e sempre a partire dal Festival sul Cinema di Venezia, vero Antonella? Sì, sì, abbiamo parlato proprio ieri di Aria Ferma del regista Leonardo Di Costanzo, oggi vogliamo invece introdurre un docufilm che si chiama Exit. Gabbie fisiche o mentali che siano non importa, quando ci si trova dentro una prigione sembra impossibile uscirne, qualsiasi essa sia, no? Eppure c'è una forza che riesce a piegare le sbarre e ad aprire un varco verso il fuori che si chiama creatività, a cui tutti noi possiamo fare appello perché è una competenza che possiamo cercare dentro di noi. E lo racconta il regista Stefano Sgarella appunto nel docufilm Exit. Quindi Exit, uscita, com'è nato questo film? Caterina, qua c'è una bella sinergia che ha giocato a favore della realizzazione di questo film, perché è sostenuto dalla Fondazione Cariplo ed è nato dall'incontro fondamentalmente di quattro soggetti che operano sul territorio milanese. Il primo è l'Associazione per il Refettorio Ambrosiano, ente capofila del progetto, e in realtà nata, penso un po', in occasione dell'Expo 2015, per animare culturalmente il Refettorio Ambrosiano, il luogo che la Caritas Ambrosiana ha realizzato nell'ex teatro della parrocchia di Greco, anche grazie alle intuizioni di un cuoco famosissimo che è Massimo Bottura e di Davide Rampello. Il secondo è l'Associazione Amici della Nave, che sostiene il coro La Nave di San Vittore e promuove anche all'esterno del carcere le attività del reparto La Nave, reparto di trattamento avanzato per la cura e il recupero di detenuti pazienti con problemi di dipendenza. Poi ci sono gli attori del Macro Modi Theater e l'associazione culturale Forte Fortissimo TV. Insomma, il confronto e il dialogo con queste realtà ha dato vita a questo bel cortometraggio diretto da Sgarella, che include anche interviste ad alcune personalità del mondo del carcere e dell'associazionismo. Penso per esempio a Pietro Buffa, provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia, Giacinto Siciliano, direttore della Casa circondariale di San Vittore, e poi Graziella Bertelli, responsabile del reparto La Nave, e Don Giuliano Savina, già presidente dell'associazione per il refettorio ambrosiano. Però una piccola chicca è anche la musica, perché la sigla finale è composta, suonata e cantata dal vivo da Franco Mussida, un chitarrista, compositore e cantante italiano, famoso virtuoso dello strumento, nonché membro fondatore, niente poco di meno che, della premiata Fornia Marconi, PFM per gli amici. E, comunque, tornando un attimo a Exit, racconta difficoltà e speranza attraverso gli occhi di un ragazzo, Alex, che ha perso il fratello per una storia di droga. E attraverso le esperienze del reparto La Nave di San Vittore e del refettorio ambrosiano spiccano proprio l'impegno del volontariato, della cultura, della musica e della bellezza come chiave per la libertà. Il corto esplora anche il blocco traumatico causato dal Covid-19 e la volontà di ripresa, quindi è veramente molto attuale. L'umanità gioca un ruolo chiave nel film, che verrà proiettato poi in visione integrale in occasione della Milano Movie Week tra il 4 e il 10 ottobre prossimo, quindi presso il refettorio ambrosiano. Se qualcuno ha la possibilità di andarci, è un'interessante manifestazione. Però prima vi ho parlato della PFM di Franco Mussida, e quindi vi farei ascoltare, già che siamo ancora in settembre, la bellissima Impressioni di settembre, che è del 1971 e che fondamentalmente è una canzone di speranza. Ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so, già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Tu Radio TV. Abbiamo sempre ospite oggi Cosimo Rega, e come sapete, l'ho presentato anche ieri, ex boss della Camorra, oggi ergastolano in semilibertà e anche attore della compagnia Stabile Assai, composta da detenuti, ex detenuti, agenti di polizia penitenziaria e volontari. Ripercorrendo un po' la tua biografia, Cosimo, è noto spesso come ci sia questo intreccio col teatro e anche col cinema, e infatti tu sei stato parte del cast Cesare Deve Morire dei Fratelli Taviani, e un docufilm che ha vinto diversi premi, penso ai Due Nastri d'Argento, ai Cinque David di Donatello, è stato premiato al Festival di Berlino, e segue i lavori, questo docufilm, di un laboratorio teatrale di Giulio Cesare di Shakespeare, realizzato dai detenuti del carcere di Rebibbia col regista Fabio Cavalli. Raccontaci questa esperienza, tu che personaggio interpretavi? Allora, io nel film interpretavo Cassio. È stata un'esperienza molto, molto, molto significativa, perché io non ho mai avuto esperienza cinematografica, era la prima volta, ed essere poi diretto da due personaggi come i Fratelli Taviani non è cosa da tutti i giorni. Quello che mi ha colpito molto di più durante quel periodo, poi abbiamo fatto un film, noi della compagnia che facevamo già teatro, abbiamo fatto questo film perché per noi era una continuazione di un percorso che stavamo facendo, c'era la voglia, non pensavamo minimamente che poi il film potesse darci tutti questi risultati, no? E allora quello che mi ha colpito maggiormente è che poi la maggior parte delle scene del film sono state girate nel reparto di alta sicurezza dove stavamo. A un certo punto io ho avuto l'impressione, la percezione, ecco la magia dell'arte, che in quel reparto non si capiva più chi era il poliziotto, il regista, il macchinista, il detenuto, gli operatori. Eravamo tutti quanti avvolti in questo lavoro, tutti ad assistere a questa donna che partorisse e che tutti tifavamo affinché questa donna poi partorisse una bella creatura. Ecco, è stato questo. L'arte ha scombussolato completamente quei 2 mesi di vivere il reparto di alta sicurezza. È stato un insieme di emozioni, ma anche con la stessa polizia penitenziaria. Tutti a stare là, i detenuti che non recitavano dovevano recitare il silenzio, perché si recitava nelle sezioni. E quindi è stata una magia, un'emozione. Io ho detto ai fratelli italiani, quando li ho salutati, che è finito tutto quanto, ho detto nulla sarà mai più come prima in questo carcere. E così è stato. È stata un'esperienza unica, fantastica, che la porterò sempre nel mio vita. Guarda, hai fatto un racconto così vivo che sento, pure io che non c'ero, sento l'emozione di quello che mi stai raccontando. Infatti volevo chiederti come è stata vissuta non solo da te, ma anche dagli altri detenuti questa esperienza. Ma sia dai detenuti, come dicevo prima, sia dalla stessa polizia penitenziaria e sia dagli stessi operatori, è stata vissuta come un'esperienza che nuova, che era un modo rivoluzionario di vivere il carcere, dove tutti collaboravamo, tutti insieme, senza conflitti, senza invidia, senza geologia, tutti insieme affinché si portasse a termine questo lavoro. Ed è stato, i rapporti erano molto distesi, c'era il confronto, anche col poliziotto che tu non riuscivi mai a parlare, oppure non riuscivi a dare. No, tutto questo è scomparso, ma non è scomparso solamente durante il film. Le parti di alta sicurezza di Re Bibbia, ricordo ancora allora il direttore dell'epoca, che era il dottor Cantone, oggi il capo del PRAP di Lazio, Molise, sembra anche della Campania, che ha voluto questa, che ha dato questa svolta, ha fatto sì che ancora oggi in quel reparto ci sono quegli elementi che sono rimasti inzuppati nelle mura di quel carcere. Oggi c'è un polo universitario, gli studenti studiano, i detenuti si laureano, c'è un rapporto più disteso con gli operatori, con la polizia, c'è un modo di vivere recuperando e mostrando quella dignità che ognuno di noi ha dentro di sé. Bellissimo Cosimo tutto quello che hai raccontato, ci rivediamo dopo la musica, a tra pochissimo. Quando si sciogliono, per lui, guarda di bene, non si dispiace, è sto bene, si scende va. Rieccoci, bentornati. Dopo la pausa musicale riprendiamo con te, Cosimo, il filo di quello che stavamo raccontando, che ci stavi raccontando, a partire dal set cinematografico In carcere dei fratelli Taviani, Cesare deve morire. Allora la domanda che ti devo proprio fare è perché una persona quando è in carcere sceglie il teatro e se il teatro è veramente terapeutico? Bellissima domanda. Mi ricordo che venne a trovarmi, io feci la prima volta Natale in casa Cupiello, poi stavo preparando un Apri Minonare, facevo io da regista. Venne a trovarmi Isabella 48 De Filippo, la moglie di Edoardo. E dopo che ci eravamo un po' conosciuti, mi disse: scriviamo un libro a quattro mani. Cosa spinge un detenuto a salire sulle tavole di un palcoscenico? Poi purtroppo morì e questa cosa non è stata mai fatta. È stato un mio rimpianto grosso e anche un mio dolore per quella donna che ho voluto bene sin dal principio. Cosa spinge un detenuto a salire sulle tavole di un teatro? Credo che il detenuto, di chiunque categoria, è vittima dell'apparire. È vittima dell'apparire, questo non dobbiamo nascondere, dobbiamo dirlo. È vittima dell'apparire, quindi questo apparire che è un po' più esaltato nella figura di queste persone. E quindi le tavole di un palcoscenico, quale espressione migliore, no? Per salire là, l'applauso, il fascio dell'applauso, farsi vedere. Però poi l'arte è pericolosa. L'arte di acchiappa, di avvolge, di coinvolge con le sue regole, con le sue cose. Quindi non puoi sfuggire. Se hai la passione su queste cose qua, ma se non hai la passione ti spinge verso altri orizzonti. Il teatro non è solo rappresentazione, il teatro ti spinge a appassionarti anche di un disegno luci, di una scenografia, a partecipare a una sceneggiatura, quando il teatro è qualcosa di fantastico. Ma poi ci sono state persone che si sono espresse attraverso anche la pittura, anche la scrittura creativa. Quindi iniziando col teatro si è arrivato poi a un percorso di arte che ha coinvolto su 140 detenuti, posso dire oltre 80 detenuti, ed è stato un qualche cosa di... Oggi io posso dire con orgoglio, avendo creato il polo universitario in quel reparto, oggi ci sono su 140 detenuti 40 laureati con più laurea, e che purtroppo questo reato ostativo non permette loro ancora di uscire. Questo è l'unico rammarico, perché sono persone diverse. Grazie, grazie davvero, e su questo ci salutiamo anche oggi, ci rivediamo con te domani per l'ultima puntata. A presto, grazie. A presto. Without a hand to hold me under, make you better in the cold. You're just like a good and close brother to me, and you know that I love you true. You never told. To learn in that time, please, won't you please? like a fat and crazy brother of mine. You know that I love you true. You never talk dirty behind my back, and I know that it's those and do. To learn in our time, please, won't you bear it in mind for me? May you never lose your temper if you get in a barroom fighting. E anche oggi siamo giunti ai saluti di fine puntata, grazie per essere stati con noi. Non dimenticatevi le rubriche a seguire se ci state ascoltando su Lepida TV, ore 13.30 abbiamo le pillole a cura di Associazione Antigone che mostreranno un focus sulle carceri, sul loro lavoro, su quello che fanno come osservatorio nelle varie carceri della nostra nazione, e anche le rubriche a cura di Cefal sul mondo del lavoro, in particolare sul mondo dell'imprenditoria. E rubriche che vanno in onda anche su Teletricolore alle ore 17 e in replica anche alle ore 17 sempre su Lepida, anche Lepida TV canale 118, e come sempre alle 6.30 del mattino su Radio Città Fujiko. Un saluto da me, da Antonella Cortese e da Enea Flacco. Scriveteci redazione liberidentro@gmail.com per qualsiasi richiesta anche nuova di proposta di rubrica. Ci siamo, proveremo ad ascoltarvi. Un abbraccio e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.